Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci arrivati insieme all'Adico a parlare di un argomento doloroso. Non lo è adesso, lo sarà fra 8 mesi, a metà dicembre, ed è la TARES. Un anno fa parlavamo di quanto dolorosa poteva essere l'IMU, lo sarà anche quest'anno perché non è una tassa che è stata cancellata, però si aggiunge anche questa TARES. Ne parliamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti. Allora, la TARES, già ne sappiamo molto, ne abbiamo sentito parlare e sparlare, è letteralmente tributo sui rifiuti e sui servizi, e quindi la tassa rifiuti, che normalmente si pagava alle aziende che gestivano appunto questo servizio, ma in più anche tutto il resto dei servizi che vengono gestiti e forniti da un comune. Sì. Come hai detto tu, la TARES prenderà il posto della TARS, quindi quella che prima era la tassa sui rifiuti, che fino ad oggi abbiamo sempre pagato, adesso pagheremo la TARS. Cosa è accaduto? Che praticamente il governo Monti ha istituito questa nuova tassa, che per noi sarà non altro che una sorta di patrimoniale mascherata, dove i cittadini si troveranno a dicembre doverla pagare, perché ricordiamoci che non è che al momento non la stiamo pagando, ma è andata in vigore dal 1 gennaio. A maggio, a notizia di qualche giorno fa, hanno stabilito che la pagheremo alla vecchia maniera, con le vecchie imposte, e poi magari approfondiremo il discorso per capire quanto aumenterà. A dicembre, in sede di conguaglio, andremo a pagare quello che è la giusta aspettanza, considerate quindi le nuove aliquote, cioè a dicembre con l'occasione del fine anno e quindi del saldo dell'IMU. Quindi avremo a dicembre da saldare l'IMU e da saldare anche la TARES, l'IMU con quello che probabilmente abbiamo già pagato nel 2012, che è già tanto, e in più ci sarà la TARES, se non sbaglio, almeno 30 centesimi al metro quadro in più, giusto? Praticamente la TARES rispetto alla TARS come funziona? Prima il cittadino pagava la normale tassa sui rifiuti e pagava un importo ben prestabilito da quelle che erano un po' le valutazioni che il comune faceva. Oggi il comune, per garantire dei servizi essenziali che noi definiamo indivisibili rispetto a quella che era la vecchia bolletta sui rifiuti, e parliamo di servizi quali illuminazione delle strade, rifacimenti dei manti stradali e quant'altro, hanno la facoltà di poter applicare almeno 30 centesimi, ma possono arrivare fino a 40 centesimi per metro quadro su quella che è l'abitazione, e questo per quanto riguarda i consumatori e le famiglie. Ma la batosta la subiranno soprattutto le imprese, perché rispetto alla vecchia tassa dei rifiuti gli andranno a calcolare anche quella che è tutto un po' il piatto attico esterno. Pensiamo per esempio un magazzino o dei capannoni, dove ci sono magari dei camion parcheggiati tutto attorno, dove prima magari non veniva calcolato i fini dei rifiuti. Quindi torniamo sostanzialmente, è vero che qui dentro non si pagano solo l'asporto rifiuti, ma c'erano anche tutti gli altri servizi comunali, si torna al vecchio conteggio in vigore fino a qualche anno fa nella maggior parte dei comuni, almeno in Veneto, basato sui metri quadri e non sull'effettivo consumo di rifiuti, e magari sulla capacità, che è tanta, di noi veneti di differenziare. Quindi la differenziata non viene premiata, posso tradurla così o è un po' troppo? Guarda, non è un po' troppo, anzi è ancora peggiore la cosa, perché fino a un po' di tempo fa la vecchia TARSU si chiamava FIA, e c'era l'IVA al 10%, di cui delle importanti sentenze costituzionali avevano imposto che le società che erano dette alla gestione dei rifiuti dovevano rimborsare l'IVA al 10%. Cosa che non è mai avvenuta, peraltro. Cosa che ti dirò che come Adico abbiamo vinto anche delle cause davanti ai giudici, ma poi ci hanno ricorso in appello e quindi hanno dissuaso i consumatori a portare avanti la battaglia, perché loro si giustificano che chi l'ha prelevata comunque ha fatto da sostituto di imposta per conto del governo, ed è anche vero. Quindi, passando dalla TIA alla TARS, cosa hanno fatto? Hanno risolto il problema, hanno risolto il conflitto dell'IVA al 10%, e quindi ci hanno subito abbiamo subito un aumento del 10% per quanto era la vecchia imposta. E adesso, passando da TARSU a TARES, dovremmo calcolare un aumento di altri 30 40 centesimi al metro quadro, che per una famiglia media che vive su un appartamento di medie dimensioni andrà a pagare circa 60-70 euro in più all'anno rispetto a quello che già pagava, che era un costo di circa 250-270 euro annui. Ecco, quindi questo è il conto che voi avete stimato, appunto, per una famiglia media 60-70 euro in più all'anno, oltre a quello che già si pagava. Guarda, era una notizia di qualche giorno fa, proprio pubblicato da Sole 24 Ore, come sostanzialmente la TARSU a regime andrà ad incidere di più rispetto all'IMU. È anche vero che ormai siamo abituati, purtroppo, ogni anno a pagare un'imposta nuova. Perché? Perché se l'anno scorso abbiamo avuto la novità dell'IMU che ne ha da sostituire l'ICI, non solo poi rivalutando quelli che hanno i coefficienti di calcolo, ma anche il valore catastale aumentandolo del 60%, e quindi anche qui tutti quanti possiamo renderci conto di cosa parliamo. Quest'anno abbiamo questa nuova invenzione che è la TARES, che oltre a pagare, come abbiamo detto, i rifiuti, dobbiamo pagare quelli che sono dei servizi che i comuni dovrebbero erogare, di cui già ogni cittadino paga da, con le addizionali IRPEF, con le multe, con gli oneri di urbanizzazione, eccetera, che a questo punto il governo ha pensato di non trasferire più certi finanziamenti alle amministrazioni locali, ma dà modo a queste di poter applicare questi 30-40 centesimi in più sul metro quadro, su un calcolo che terrà conto non solo della superficie ma anche del numero dei componenti, ma che però comunque andrà a valutare quello che è un'imposta su quella che è l'effettiva superficie di, in cui ognuno di noi vive. Evidenziamo un altro aspetto: siamo ormai a metà aprile, a maggio prima rata della TARES, a giugno prima rata dell'IMU, a luglio l'IRPEF, insomma non si smette mai. Guarda, la cosa è sempre peggiore anche di quello che si può tentare di spiegare agli ascoltatori, perché fondamentalmente poi cosa scopriamo? Che a gennaio doveva essere entrare in vigore la TARES, ma sostanzialmente non è entrato in vigore, ma non hanno pensato di iniziare a farla pagare con i nuovi coefficienti perché c'erano le politiche. Poi hanno fatto slittare la cosa tra aprile e maggio, e in realtà poi dobbiamo calcolare che ci sono le amministrative. Hanno risolto il problema dicendoti: perfetto, la paghi a dicembre. Quindi per coloro che a dicembre erano abituati già e hanno la fortuna di avere la tredicesima, ma che in soldone abbiamo visto non potranno sostanzialmente più utilizzare, perché ormai già le tredicesime, quando sono giugno e luglio, si cominciano a impegnare, bisognerà mettere in conto anche questa nuova batosta qui, che purtroppo, come hai detto te, andrà ad aggiungersene a tante altre che ormai paghiamo e che continuiamo a subire. Ne parleremo ancora appena ci saranno anche ulteriori dettagli sui calcoli, appena avremo un governo che possa anche decidere, speriamo in positivo, di apportare delle modifiche. Con questo ci fermiamo qui, settimana prossima altri due argomenti insieme all'Adico. Grazie Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.